Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 19 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti e tutti tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro e Duradio. Sono sempre con Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno e dico anche oggi in particolare buongiorno a quelli che sono di fede islamica che fanno la preghiera del venerdì, quindi buongiorno a tutti. E Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine, buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Un onore averti qui tutta questa settimana con noi su Liberi Dentro. Bene. L'onore è tutto mio. Partiamo sempre dalla cronaca bianca, che come ricordava Ignazio sono le notizie che spesso non ci arrivano, perché sono notizie che rimangono magari coperte da altre, più urgenti. Questa volta si parla di epatite C nel mondo carcerario, quindi un quadro sulla situazione italiana di Davide Cavaleri su pharmastar.it, leggo questa notizia, dove si parla appunto del carcere come, diciamo, luogo che racchiude tutte le problematiche sociali e anche di salute, in special modo riguardo alle malattie infettive HCV e HBV. E la realtà carceraria è costituita da 189 istituti penitenziari, lo ricordo, sul territorio nazionale, per un totale di circa 105.000 detenuti nell'anno 2019, e un detenuto su tre ha commesso reati contro il testo unico per la lotta agli stupefacenti e quindi è verosimile che abbia avuto o abbia una storia di rischio per infezioni da virus trasmissibili per via ematica o sessuale. E secondo le stime della Società Italiana di Medicina e Salute e Sanità Penitenziaria SIMS, dei 105.000 detenuti possono essere positivi all'HCV anche il 20%. Quindi, cosa ha messo in atto? Un piano di microeliminazione delle infezioni in ambito penitenziario approvato dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, questa è una notizia molto importante perché questo prevede di operare per singola sezione detentiva, quindi su gruppi ristretti di detenuti previa appunto educazione sanitaria specifica per eliminare il virus oppure comunque le malattie infettive. In questo modo si monitora anche la popolazione detenuta e si effettua una stadiazione clinica dei soggetti positivi. Ma ora passo a te, Ignazio, sempre con le notizie dal mondo. Io continuerei su questo tema, un po' sulla prevenzione, la cura della salute, con questa notizia che ci arriva dall'Egitto, con un'iniziativa del Ministero della Sanità per cercare un pochino di dissuadere la popolazione e mettere in guardia contro i pericoli del fumo. Io capisco chi ci ascolta, ecco, le persone che si trovano ristrette, la giornata è lunga e il fumo è un compagno, è anche un modo per sulle ansie, per controllare le proprie ansie, quindi certo non si può fare certo demonizzare, però insomma lo sappiamo che il fumo fa male alla salute, il cuore, il sistema respiratorio e soprattutto nei paesi dove io ho abitato, in Giordania, in Egitto, in Libano, bisogna dire che è molto cioè pervasivo, si fuma dappertutto. Io ricordo quando ero piccolo che con mio papà, grande fumatore, si andava al cinema, le cinema italiane erano delle fumerie pazzesche, ecco, non riesco a immaginare oggi cos'era da bambino, e mio papà fumava in macchina con tutti i finestrini chiusi, che aveva paura del freddo, quindi però insomma sono cose che fa male. E poi compie un passo che ancora peggio, mette in guardia contro la shisha che sarebbe anche l'arghile diciamo noi, e cioè quel fumo che si fa insieme da un fornelletto, lo sapete, dove c'è l'acqua, dove si mette il tabacco, dove si può mettere aromatizzato di rosa, che è un modo per stare insieme. Se tu togli la shisha agli egiziani, è peggio di togliergli i faraoni e crolla l'Egitto. In tutto questo bisogna dire però, e questo mi colpisce molto dei musulmani, durante il mese di Ramadan rinunciano a fumare. Si dice, noi diciamo tadkhin, che è produrre fumo, oppure sharb sigare, tishrab sigare, ti bevi una sigaretta. Allora, visto che non si può mangiare né bere durante le giornate dall'alba al tramonto, veramente persone che fumatrici, folli proprio, tremendi, a Ramadan si bloccano completamente. Questo è un grande sforzo di volontà, che quindi dice che un po' di volontà uno ce la può mettere anche durante l'anno, per ridurre almeno. Bene, grazie per queste notizie e tocca a te lanciare sempre il brano musicale di oggi. Sì, l'ultimo è sempre di una cantante libanese, Nawal El Zoghbi, Agla El Habaib, cioè l'amato preferito. Eccoci su Liberi Dentro, dopo le note musicali che avete appena ascoltato da questi cantautori libanesi di cui stiamo scorrendo in questa settimana. Siamo sempre con te, Ignazio, per parlare di Galateo Arabo Internazionale, universale, e stiamo parlando di come vincere la noia. Oggi un'arma, ti anticipo io, è la creatività. Ti anticipo esatto. Perché abbiamo Micaela che con la creatività ci vive. Esatto, la creatività è la grande, diciamo, panacea contro la noia, perché la noia è anche una riduzione dei pensieri, cioè non, tutto non serve, tutto non piace, tutto, la noia è così, uno affonda, per dirle in arabo, la noia non mustanka, è uno stagno. La noia è uno stagno. Allora dice qua il mio testo, dice che era il kutub, qualchisas, allora leggere libri, e leggere novelle, quindi una prima cosa, quello ti apre sempre, leggere è una cosa importantissima, ma non solo, al kitaba, mitza kitaba riwaya, kasida, o kitaba risala il sadiq ba'id, allora scrivere, e quindi scrivere una novella, scrivere una poesia, scrivere una lettera a un amico lontano. E poi ar-rasm wal talwin, cioè disegnare e colorare. Sono le cose, sono gli strumenti che, vedete, sono così tutti alla portata nostra. E magari mi verrebbe da dire, visto che c'è Micaela, perché no? Scrivere dei testi di teatro, perché che no? Possano essere mettere in scena. Veramente, anche perché lo proponiamo nelle lettere che in questi giorni stiamo scrivendo ai nostri vecchi partecipanti, che speriamo siano anche nuovi e speriamo di averne anche di più, anche tra chi non era partecipante l'anno scorso. Una delle proposte è leggere cose che gli mandiamo, un'altra proposta è scrivere a partire da quelle, un'altra proposta ancora è disegnare a partire da quelle. Quindi proprio sì, il Galateo Arabo fa per me, come dicevamo prima fuori onda, e la creatività è salvatrice, ma senza, non dobbiamo diventare Michelangelo, cioè a volte uno ha un po' paura, un po' quest'ansia da prestazione, per cui creatività vuol dire inventare qualche cosa di assolutamente magnifico, quando invece dovremmo imparare dai bambini, e appunto da quella speciale dote di creare dal niente, vedere cose dove non ci sono e giocarci insieme. Ecco, quando il teatro diventa questa cosa è molto prezioso. Una cosa di cui non abbiamo parlato in questi giorni, se puoi un po' raccontarcela brevemente, è la differenza che c'è tra creatività vissuta dentro, in carcere, quando si è ristretti, e vissuta fuori. Ma è interessante questa domanda perché, se devo essere proprio completamente onesta, non c'è grande differenza. Cioè, è evidente che c'è una grande differenza tra lavorare in un contesto e in un altro. Ma quando poi si entra dentro il lavoro gioco del teatro, la capacità esplosiva di generare idee, emozioni, immagini, può essere veramente altrettanto potente dentro che fuori, e mi verrebbe da dire anche di più, proprio perché si sa da dove si parte, come dire, apparentemente da un terreno non arato, e invece quel terreno è arato, e come, perché ci sono le persone, è sufficiente avere le persone, quando si hanno le persone è tutto già lì, non so come dire, e anche il contesto più desertico può produrre, insomma, vegetazione in qualche modo. Non so se ti ho risposto. No, hai risposto perfettamente, e anzi è un, diciamo, un invito in più anche per la cittadinanza che ci ascolta a pensarsi vicini e alle persone che in questo momento sono temporaneamente ristrette, che magari trovano degli agganci comuni nel concetto di creatività, perché è vero, hai ragione, si pensa che sia così diverso, invece magari ci sono delle somiglianze, per l'appunto. Se posso aggiungere, Caterina, una cosa che mi diceva una persona detenuta della sezione femminile, che per lei il teatro è importante perché interpretando un personaggio che non è lei, però è anche lei che assume, ha l'occasione di mettersi in un altro punto di vista della vita. Quindi, come si dice, non nel teatro, non so se è giusto, Michele, uno si cala nel personaggio, no? Sì. Ma però rimane anche se stesso, e quindi come se guardasse la vita, anche questa è creatività, da un'altra angolatura. È così, ed è anche come una seconda possibilità di dire, di fare, di escogitare, di vedere altri lati di sé. Cioè, il personaggio ti svela te, e questo è magico, ma succede tutte le volte, anche per chi non è un professionista. Grazie a tutte e due, e ora ci rivediamo sempre lunedì mattina con un altro ospite. Lancio un brano io, Francesco De Gregori, Alice. Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo, e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, continuiamo il nostro percorso ormai consuetudinario con un ospite, lei è sempre Maria Inglese, buongiorno Maria. Buongiorno. Medico dell'ASL di Parma, sei psichiatra, e con te stiamo un po' facendo un percorso sulla salute mentale, anche valido sia per la cittadinanza che ci ascolta su Radio Città Fujiko e su Teletricolore, ma anche per quella parte di popolazione di cittadini che ci ascoltano dalle carceri dell'Emilia Romagna. E lo stiamo affrontando, questo discorso sulla salute mentale, perché è naturale, il carcere è un ambiente che di per sé produce della sofferenza, delle malattie, è una fabbrica, come dire, di handicap psicofisici, ma sia per chi è ristretto sia anche per chi deve lavorarci, cioè pensiamo anche agli agenti, no? Sempre la ristrettezza in un luogo così, fisicamente concepito in questa maniera, è qualcosa che naturalmente è pesante per le vite di queste persone. E la scorsa volta abbiamo parlato di quelle che possono essere le malattie del carcere, come la paranoia, il senso di vittimizzazione. Oggi invece con te volevo affrontare tre parole che sono lo sradicamento, l'estraniazione e l'isolamento. Se mi aiuti a definirle e quali sono i rischi di queste tre cose. Bene, allora partirei dalla dall'ultima in realtà, che è quella dell'isolamento. Ricordiamoci che il carcere è un luogo che isola, per definizione, separa una persona, l'autore di reato, dal resto della comunità. Questo è il mandato del carcere e questo lo fa per una ragione collettivamente accettata, che è quella di proteggere la comunità dall'autore di reato. Nello stesso tempo la nostra Costituzione prevede che quel momento di separazione sia anche un momento di rielaborazione e di riabilitazione, se vogliamo, della persona Certamente. Nella sua dimensione di cittadino. Il carcere fa questo, quindi è di per sé un luogo, un dispositivo che separa, e separando l'autore di reato dalla comunità, in un certo senso separa anche delle biografie, delle storie. Ricucire la narrazione dell'autore di reato insieme alla narrazione della comunità ferita eventualmente dal reato, questo dovrebbe essere un compito anche del dispositivo carcere. Lo dico perché nel momento in cui come psichiatra entriamo in carcere a fare il nostro mestiere, che è quello della tutela della salute mentale, è impensabile promuovere salute mentale senza che ci sia un'attenzione alla comunità di vita del soggetto e quindi anche alla comunità di appartenenza. Per forza la psichiatria si occupa della comunità e dell'essere in comune, quindi anche del soggetto, autore di reato, paziente psichiatrico e della sua comunità. Quindi già questo è un piccolo paradosso che noi viviamo entrando in carcere, dico come psichiatra che entra in carcere e ci ha lavorato. Dall'altra parte tu parlavi dello sradicamento. Allora, lo sradicamento io penso che sia la patologia emergente del carcere oggi. Quando appunto lavoravo in carcere, capitava spesso di incontrare sempre di più persone sradicate dai propri contesti di vita, dalle proprie famiglie, dalle proprie origini. E non parlo solo di detenuti stranieri. Era evidente chiaramente con i detenuti stranieri che in carcere vivevano una condizione di marginalità nella marginalità, noi li chiamavamo gli invisibili tra gli invisibili, ma questo capitava anche sempre di più e più spesso con anche detenuti italiani, che erano persone che non avevano più casa, più lavoro, più una rete familiare, più una rete sociale, più un posto dove ritornare eventualmente. E questa è la patologia dello sradicamento. La parola è stata descritta da Simone Weil in un testo in cui commentava qual era l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi possiamo dire che la patologia dello sradicamento è la nostra, che non siamo più ospiti a casa nostra. Beh, queste tre cose che abbiamo affrontato insieme possono essere definite un po' il nostro nemico, no? E quindi questo mi Certo. dà l'occasione per chiederti che brano lanciamo a metà della nostra intervista. Esatto, e lancerei appunto Il mio nemico di Daniele Silvestri. Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare, mira. Probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura. Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa. Eccoci sulle note musicali di Daniele Silvestri, Il mio nemico. E vorrei però, e secondo me è d'obbligo, Maria, fare una riflessione, nel senso che bisognerebbe distinguere quella che è la solitudine dall'estraniazione vera e propria, nel senso che forse certe volte abbiamo bisogno di incontrare noi stessi, e mi verrebbe da citare un'autrice, Virginia Woolf, che dice: la compagnia incessante è nociva quanto l'isolamento solitario. Spieghiamolo anche per chi ci ascolta come cittadinanza. Allora, hai fatto molto bene a citare Virginia Woolf, che è un'autrice importantissima. Soprattutto io la voglio ricordare per questo testo fondamentale, che è Una stanza tutta per sé, nella quale lei in un certo senso elogia la solitudine, perché il momento in cui incontriamo noi stessi è un momento molto importante, sia di conoscenza ma sia anche di creazione. E lei appunto come scrittrice parla in questo libro di un'ipotetica sorella di Shakespeare che, se avesse avuto una stanza tutta per sé, avrebbe potuto scrivere dei testi meravigliosi come Shakespeare. In quanto donna questo era quasi impossibile. Allora dobbiamo ricordarci che c'è una condizione di solitudine produttiva, creativa, capace di generare, ed è quella che tutti noi cerchiamo nel momento in cui ci isoliamo, ma per ritrovarci. Nel momento in cui creiamo qualcosa, nel momento in cui ricordiamo qualcuno, nel momento in cui abbiamo una fantasia sulle persone che amiamo, sui nostri mestieri possibili, sui viaggi che vorremmo fare. Cosa ben diversa invece quello che dicevi, quando questa solitudine non è scelta, ma è una solitudine imposta, ed è, come dice anche la Woolf, anche il rumore eccessivo può creare quello straniamento patologico, diciamo, che fa soffrire la nostra soggettività. Questo secondo me è stato tanto più vero anche in questo periodo della pandemia, dove abbiamo dovuto silenziare molte delle nostre capacità, delle nostre competenze, delle nostre relazioni. Non abbiamo incontrato il nostro sé solo creativo, cioè nella solitudine creativa, ma abbiamo incontrato la nostra solitudine di sentirci scollegati dal resto della nostra vita, dei nostri affetti. Ecco, questo ci dovrebbe far pensare quanto noi in realtà abbiamo bisogno, proprio per poter essere anche soli e creativi, delle relazioni che ci nutrono. E quindi questo mi fa pensare che la condizione che vivono tante persone detenute, di una solitudine che può essere anche generativa e rigenerativa, però ha, come dire, anche questo pericolo, cioè di mantenere lo slegame, appunto l'allontanamento dalla propria vita e dai propri contesti e soprattutto dai propri affetti. Grazie Maria, ritorneremo con te la prossima settimana sempre per approfondire questi argomenti. Ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori Tra la città e il carcere di scriverci alla redazione di Liberi Dentro, così potrai rispondere anche tu. Certo. E adesso io lancerei un brano dei Muse, Starlight, che parla sempre di anche allontanamento, di separazione, però con una forza in più per riconnetterci. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao. Far away, the ship has taken me far away, far away. expectations. Black holes and revelations, and our hopes and expectations. Black holes and revelations. Eccovi, dopo aver ascoltato la nostra psichiatra esperta in cura della salute mentale Maria Inglese, ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento però a oggi pomeriggio alle 17 sul canale 636 di Teletricolore con i nostri laboratori che ricordo vanno sempre in onda anche sulla radio alle 6.30 su Radio Città Fujiko. Oggi pomeriggio ci trovate, vi dicevo, alle 5 del pomeriggio con il laboratorio teatrale dei Cantieri Meticci. Però non vi dimenticate che anche nel weekend ci siamo, sempre al canale 636, sabato con la cappellania e i gruppi del Vangelo, poi col Teatro del Pratello, mentre per domenica 21 avremo il Teatro dell'Argine, Note Libere di Maria Chiara Gallo e la scuola di cucina curata dal FOMAL. Seguiteci, ci siamo sempre e noi ci rivediamo la prossima settimana alle 9.30 su Radio Città, alle 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Buon fine settimana e a presto. Ciao.